Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ben ritrovati, il nuovo appuntamento con il mondo della scuola che riprende come tutte le nostre rubriche in questa settimana post-epifania. Il saluto ancora da Mirko Cavallini in studio, da Eddie Daici in regia. Salutiamo il nostro giovane ospite con il quale parleremo di una realtà che non molti conoscono, io per primo, che è la consulta provinciale degli studenti. Benvenuto a Francesco Roberto. Ciao, ciao Francesco. Allora, consulta provinciale degli studenti, detta così insomma mi viene da pensare che in ogni provincia italiana evidentemente esista o debba esistere questa consulta. Allora, tu ne hai fatto parte, sì. Poi spiegheremo anche con quali ruoli, perché ci sono diversi ruoli all'interno. Che cos'è una consulta provinciale degli studenti, se non la prima idea che mi viene di dire che è un'aggregazione di studenti che rappresentano qualcun altro? Però da qui entriamo nel dettaglio. Beh, a me piace definirla un laboratorio a cielo aperto, un laboratorio di idee, davvero un insieme di menti diverse che collaborano per gli studenti. Però passerei direttamente alla descrizione, quella ufficiale. Insomma, è l'organo di rappresentanza istituzionale per eccellenza. È stato creato nel 1996 con un decreto del Presidente della Repubblica, quindi ha una certa importanza. Ed è l'unico che può interloquire con il ministro. Ogni consulta provinciale, quindi ce ne sono all'epoca 107, adesso hanno eliminato qualche provincia, adesso sì, mi sfugge il numero. Vedremo insomma quante saranno effettivamente. Sì. Però ci sono due rappresentanti per ogni istituto di grado secondario superiore della provincia che vanno a riunirsi in plenaria mensile e lì nasce la consulta. Due studenti di ogni scuola che sono i rappresentanti di istituto o sono altri? No, sono altri, sono proprio i rappresentanti della consulta. Quindi ci sono quattro rappresentanti di istituto che lavorano all'interno degli istituti, i rappresentanti della consulta lavorano extra, sì, fuori. Ecco, mi viene già da chiederti allora come si relazionano queste due realtà, cioè i rappresentanti di istituto dialogano quindi con il dirigente, con i professori all'interno della singola scuola, e poi di una stessa scuola ci sono altri due persone che invece rappresentano la scuola a livello nell'ambito provinciale. Che dialogo c'è? Oppure tra rappresentanti e rappresentanti, dalla faccia che fai mi pare che insomma c'è molto da lavorare. Sì, è un po' combattuto, nel senso che anche i rappresentanti di consulta possono discutere, parlare, proporre al preside. Il problema è che in tante realtà scolastiche i rappresentanti di istituto tendono ad isolare quelli della consulta, un po' per l'effettiva nascita di questa istituzione che è nata dopo, è giovane, ha 15 anni, 16 anni, è giovane rispetto ai rappresentanti di istituto. Quindi anche gli studenti vedono un po' come le elezioni politiche interne e quelle europee, nel senso che all'interno della scuola viene visto più importante il rappresentante istituto. Perché? Perché organizza, non so, la festa di fine anno, il torneo sportivo. Perché è più diretto poi. È più diretto, è più presente, è quello che passeggia per i corridoi. Certo che il rappresentante in consulta, anche lui, passeggia per i corridoi. Però lavora al di fuori, collega l'istituto con gli altri istituti. E gli studenti lo vedono un po' più distante. Quindi c'è un po' di attrito tra i due ruoli, purtroppo. Su questo insomma ci sarà da lavorare. A livello provinciale dentro ci sono tutte le scuole, quindi sia le statali che le paritarie. Sì. E anche questo è significativo, visto che poi nel nostro territorio insomma ci sono realtà importanti. Tu stesso mi dicevi hai fatto entrambi i percorsi, hai fatto nelle superiori prima una scuola paritaria e poi hai completato riorientandoti. Scelta obbligata. No. Riorientandoti da un'altra parte. All'interno quindi in totale quanti sono ad esempio per Treviso, da dove vieni tu? Per Treviso 54 scuole superiori, secondarie, e quindi 108 rappresentanti, che di fatto sono 108, però effettivamente certe scuole non eleggono, perché abbiamo anche problemi nelle elezioni, certi rappresentanti rinunciano al ruolo e non c'è nessun sostituto, e quindi sono molto meno, sono 80 circa per Treviso. Riunione ogni quanto tempo? Una volta al mese, previsto dal regolamento. Poi ci sono consulte che lo cambiano, proprio all'interno ne fanno magari massimo 6 durante l'anno per non far perdere troppo tempo agli studenti, perché abbiamo altri problemi anche. Certamente. La durata del mandato è di due anni. Sì. Che è rinnovabile. Sì, certo. È rinnovabile se uno studente non conclude le scuole superiori, perché se io vengo eletto in quinta, certo, il mandato dura 2 anni, lo perdo a prescindere dal fatto che duri 2 o 3 anni, eccetera. Quindi una volta che tu sei diplomato, sì, non fai più non parte, posso più. Se cambio scuola, uh-huh, e sono stato eletto, non so, al turistico, cambio, sì, vado allo scientifico, io decado. Uh-huh. E posso farmi rileggere, certo, al turistico, quello, sì, la scuola successiva, però non è detto. Non è detto. Ecco, questa è una formula interessante. All'interno, insomma, visto che c'è un centinaio di rappresentanti, in teoria poi effettivamente un'ottantina, ci vuole anche un'organizzazione più possibile democratica, no? Sì, l'organizzazione è su base effettivamente verticale, nel senso che esiste una gerarchia di ruoli, delle elezioni. Però la consulta è più orizzontale di quanto pensi, nel senso che è tutto democraticamente, viene tutto democraticamente eletto a scrutinio segreto, sia gli organi di presidenza, presidente e vicepresidente, che la giunta, uh-huh, sia il segretario, poi sono ruoli effettivamente primus inter pares, quindi... E gli stessi rappresentanti sono eletti all'interno dell'istituto democraticamente. Certo. Le elezioni si svolgono all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno scolastico. Però anche lì abbiamo dei problemi, nel senso che siccome la burocrazia scolastica prevede altri documenti, altre elezioni più importanti tra virgolette prima, sono più sentite, più magari, sentite, sì, mm, ecco, il rappresentante, quelle... non so, anche no, d'istituto è fatto insieme, però magari provvedere a cose molto più pratiche. Mm-hmm. Veniamo relegati a fine ottobre, primi novembre, quindi la consulta parte molto lentamente. Parte, insomma, i primi mesi, sì, dell'anno scolastico vengono un po' perché persi, tra a novembre c'è la prima plenaria di conoscenza, dipende, sì, quanti cambiano effettivamente, sì, e poi effettivamente comincia a lavorare gennaio. Ecco. Però insomma il primo quadrimestre è quasi Santa, perso. Sì. E su cosa lavora la consulta lo diremo tra poco, dopo questa prima pausa. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ho bisogno di sentirmi utile. Lo faccio per me. Voglio darmi delle regole per assomigliare a te. Non mi voglio vulnerabile alla tua merce. Ho bisogno di un codice ed anche di un perché. Vivo un equilibrio instabile, colleziono illusioni. In questa vita così labile, io sono le mie canzoni. Tradizione, sono il popolo, il re, sono servo e signore, il baro ed il croupier, ma vivo un equilibrio instabile. Io colleziono illusioni, in questo mondo così labile, io sono le mie canzoni. Delle mie emozioni, le mie emozioni. instabile, schiavo delle mie passioni, le mie passioni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Seconda parte di questa 14ª puntata dal mondo della scuola con il nostro ospite Francesco Roberto. Stiamo parlando di consulta provinciale degli studenti, una realtà interessante, abbiamo detto istituita meno di 20 anni fa, nel 1996, due studenti in teoria per ogni scuola superiore della provincia, con presidente, vicepresidente, insomma abbiamo capito che è un organo di rappresentanza che dialoga ufficialmente con il ministero e con il ministro. Su che cosa dialoga? Quindi, Francesco, di che cosa si occupa concretamente la consulta? La consulta non solo funge da collegamento tra istituti, deve proprio creare una base sul territorio, quindi si relaziona con associazioni, con la regione, con la provincia, con enti che possono essere anche enti benefici, quale Avis, sì. Non solo, crea anche un percorso extracurricolare per gli studenti, pari passo a quello scolastico, magari sulle stesse tematiche, organizzando ad esempio rappresentazioni teatrali, appuntamenti con personaggi illustri. Abbiamo qui a Treviso, ad esempio, abbiamo ospitato il procuratore antimafia Boraccetti, l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi, abbiamo organizzato uno spettacolo sulla giornata del ricordo, sulle foibe qui al Teatro Eden, quindi... la consulta di fatto organizza questo. Poi certo che siccome veniamo contestati, veniamo accusati di non rappresentare effettivamente gli studenti, non è vero, smentisco, nel senso che noi non siamo stati creati per ad esempio manifestare, quindi non siamo la classica più si vede, più, vuol dire che non è vero. Noi lavoriamo un po' forse troppo nell'ombra, però contribuiamo, lo statuto degli studenti e delle studentesse che anche oggi rappresenta, ancora oggi rappresenta una pietra miliare dei successi studenteschi, l'abbiamo creato noi con il Consiglio Nazionale, perché poi i presidenti si riuniscono in Consiglio Nazionale. Quindi di fatto crea cose concrete la consulta, concorsi sull'ambiente, sulla legalità, il viaggio a Palermo della nave a legalità, dove comunque siamo in, le consulte sono in riunione con i ministri nell'aula bunker, insomma di fatto la testimonianza viene portata avanti di tutti gli studenti. Ecco, studenti appunto di varie scuole superiori, quindi anche di realtà, di istituti professionali, di licei, di insomma un po' di tutto, scuole paritarie e scuole statali, come dicevamo, e anche in questo senso è, credo sia un luogo di confronto che altrimenti credo non esista, nel senso che anche qui, come dicevi, no, i rappresentanti della consulta vengono visti un po' male dai rappresentanti degli studenti e magari anche viceversa. Stessa cosa che succede magari tra studenti di scuole statali e studenti di scuole paritarie, o in generale la scuola paritaria viene vista un po' così, con un occhio diverso. Tu hai vissuto tra l'altro entrambe le realtà. In questo senso la consulta è un luogo di dialogo tra queste realtà? Assolutamente, nel senso che, a prescindere dalla mia opinione personale, che secondo me tra studenti non dovrebbero esserci discriminazioni di nessun genere, e non parlo come studente solo di paritario, come tu ricordavi, o solo della scuola pubblica. Dovremmo essere tutti in sintonia, tutti in complicità, a prescindere dal mondo esterno, dalla politica, dai soldi che vengono dati. Questo non è compito degli studenti, è unirsi e pensare insieme. La consulta di fatto è un tavolo di lavoro, una tavola rotonda, e davvero c'è molta sintonia. Più volte è capitato, a parte che la consulta si suddivide in commissione, e lì gli studenti lavorano spalla a spalla, quindi non esistono discriminazioni, diventa davvero un laboratorio a cielo aperto, come ho aperto, sì, come dicevi prima. Tante cose insomma che già fate o che potreste fare, con quali risorse, oltre alle vostre idee? Oltre alle idee, ma purtroppo con le idee al giorno d'oggi non si va avanti solo. Abbiamo il 7%, alle consulte è destinato il 7% dei fondi regionali e provinciali che vengono destinati alle attività degli studenti, che possono essere i laboratori interni alla scuola, le attività all'interno scuola. Noi il 7% lo utilizziamo per unire tutti gli istituti. Quindi serve una cifra, quantificando insomma, per indicativamente. Le scuole del Veneto erano per le consulte del Veneto erano 97.000 euro nel 2011. Quindi, adesso non lo so, adesso presumo meno, molto meno. Ecco. Sì. 97 per 7 province. Per 7 province, ovviamente viene distribuito in base al numero di studenti, certo, al numero di... Adesso per fortuna non è più così, è per meritocrazia, nel senso che più una consulta fa, più presenta progetti relazionati e concreti al Ministero, più fondi riceve. Certo non c'è una dispersione, sono sempre... ben quantificati, calibrati. Per questo abbiamo un ufficio magnifico al Ministero. Ecco, quindi insomma 10-20 mila euro, 25 a farla grande da gestire, se va bene, insomma, possono essere tanti, ma possono essere anche pochi, non lo so. Pochi, nel senso che, certo, sono tanti se uno pensa con quei soldi potrei ristrutturare tre classi. Allora dico, sì, beh, ce la faccio. Per quello che facciamo noi, e ci vengono destinati questi, di fatto non possiamo chiederne di meno o di più. Tanto quelli comunque, sono. Quelli, certo, sono, e se non li spendiamo ci vengono tolti, vengono ridistribuiti per altre cose. Sono pochi, perché a Treviso ad esempio erano 14.000 euro nel 2011, e solo per organizzare la giornata dei tornei sportivi ad esempio 4.500 euro. E uniscono tutte le scuole, 5.000 euro. Certo. Perché l'ambulanza costa 180 euro al giorno, ed è obbligatoria, perché le attrezzature, prenotare i campi... Però le scuole rispondono, hanno 100 scuole, ecco, 100 squadre, scusa. Che partecipano. Sì. Faccio una battuta, insomma, in tempi ormai di campagna elettorale iniziata, voi non chiedete rimborsi. No. Ecco. No. Non chiedete rimborsi, va bene. Allora, qualcun altro prende esempio, facciamo un'ultima pausa e poi torniamo insieme. Dal mondo della scuola. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. Says the man next to me, out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di Consulta Provinciale Studenti con Francesco Roberto, che ne ha fatto parte. Ne hai fatto parte, Francesco, in diversi ruoli. Sì. Vuoi spiegarci? Prima ho svolto il ruolo più importante di tutti, il rappresentante normale, che è quello, è la catena base. E poi sono stato eletto, per mia fortuna, per mio onore, anzi personale, ringrazio gli studenti, il primo giorno presidente provinciale. E poi di conseguenza 3 mesi dopo presidente o coordinatore regionale, come preferiamo chiamarlo, e moderatore nazionale del consiglio l'anno successivo. Però sì, a prescindere dal ruolo, la missione dei miei predecessori, dei miei successori, è sempre quella, anche del sottoscritto, portare avanti la voce degli studenti. Quindi a prescindere dal ruolo, dalla nomina, di fatto lavoriamo costantemente, anche perché uno che diventa, io ero presidente nazionale, moderatore nazionale, ho continuato comunque a lavorare nella mia consulta, quindi di fatto cambia solo un po' il carico di lavoro. Questi gli impegni anche a livello nazionale e regionale come vengono gestiti nell'ambito dell'anno scolastico? Cioè, fate gli incontri di pomeriggio, di sera, in orario scolastico, in orario cioè come funziona? Allora, le plenarie mensili di ogni consulta provinciale vengono fatte durante l'orario scolastico, la mattina. Voi fanno parte dell'orario, non dovete chiedere permesso, cioè dovete, insomma, come i sindacalisti nell'ambito lavorativo hanno gli orari. Il problema è che subiamo parecchio ostruzionismo, nel senso che anch'io adesso, non per ripetere, però, avendo ruolo nazionale, non sono riuscito a districarmi tra cavilli, permessi, anzi tante volte, mi è capitato una volta di essere a Palermo e ho ricevuto una chiamata da mia compagna disperata in bagno che mi diceva: guarda che i professori sono arrabbiati, sono incavolati, non so quanto. Ho dovuto far chiamare l'ispettore del ministero per giustificare che effettivamente ero a Palermo, ma non mi invento di andare a Palermo. Sì, certo. Però sì, gli impegni sono durante l'orario curricolare, però di fatto non si perde tanto, perché io ho quantificato gli 8 giorni di rappresentanza qui a Treviso, quindi le 8 plenarie mensili, più di viaggi, convegni, eccetera, altri 10 giorni, quindi distribuiti in un anno. C'è gente che ne perde molti di più stando a Treviso seduti sulla panchina. Ecco, va bene, detto anche questo, c'è il ruolo del tutor che tu hai anche ricoperto, che è un ruolo un po' particolare. Sì, è la mamma chioccia, come prima dicevi. Oppure il fratello maggiore. Fratello maggiore, nel senso che una volta, il ruolo spetta di diritto ad un membro della giunta. Prima il presidente, poi un membro della giunta, sta in carica un anno, non ha il diritto di voto, di veto, è solo un consigliere personale della consulta, quindi dà la disponibilità, dà la propria esperienza negli anni passati, garantisce una transizione tra il passato e il futuro. Certo, dicevamo dunque la consulta, abbiamo cercato di spiegare che cos'è, ovviamente essendo un organo anche di rappresentanza, un organo democratico, dovrà rispondere a qualcuno, insomma, come succede nella democrazia, anche gestendo dei fondi che sono fondi pubblici, il 7%, come dicevi prima. A chi risponde la consulta? Risponde gli studenti, in primis al presidente, poi dipende da quanto grave è il fatto, ovviamente se c'è un... se vengono utilizzati più fondi si procede direttamente a rispondere all'ex provveditorato, l'ufficio scolastico territoriale. Noi abbiamo ad esempio a Treviso una grandissima professoressa, la professoressa Vanna Sandre, che ringrazio, tutta la consulta ringrazio per il suo lavoro, ma poi abbiamo anche un ufficio regionale con il nostro, adesso è andato in pensione, il nostro ex dirigente Fernando Cerchiaro, ex ispettore del ministero, e così in scala gerarchica rispondiamo al direttore generale del Veneto, e poi ovviamente all'ufficio del ministero. Ecco, quindi insomma sì. Ci sono anche dei controlli o comunque delle... Insomma non è proprio facile, se si sgarra si va incontro. Si deve rendere conto. Rendere conto. Giustamente, insomma, come dicevamo prima, come dovrebbe essere anche in altri ambiti, anche più importanti, sembra, a proposito di rappresentanza democratica. Tu adesso fai lo studente, stai studiando a Trento, cosa stai studiando? Studi politici internazionali ed europei. Che è una cosa un po' particolare. Sì, è un misto tra giurisprudenza e scienze internazionali. Ecco, e scienze politiche. A livello, per quello, tu ne sei uscito appunto dalla consulta, perché ormai non hai più l'età. come diceva la canzone, appunto. Però magari puoi indicarci se ci sono nel prossimo periodo, a livello locale o regionale, se li conosci, qualche progetto, qualche iniziativa? Beh, in questo momento per me è difficile effettivamente darvi progetti concreti, perché io sono uscito l'anno scorso, quest'anno non la seguo, se non per sentito dire. Però sicuramente ci saranno i tornei sportivi che si svolgono nei mesi di aprile, maggio. Ci sono tante scuole che partecipano, verranno fatte probabilmente come gli anni scorsi alle piscine Zambon, al centro sportivo Zambon. E non so a livello rappresentazioni teatrali, incontri, chi ci sarà, però dopo posso darti i contatti. Eventualmente si può cercare, insomma. Tu hai conosciuto anche l'esperienza nazionale. Ci sono diversità anche in questo ambito lungo la penisola? A parte i dialetti che parliamo, cioè, vabbè, consigli nazionali. Il colore è bello. Sì, sì, no, è molto bello da quel punto di vista. No, perché... a prescindere da credi politici, colore della pelle, così, banalità, ma siamo tutti convinti di una cosa: portare avanti gli studenti. Quindi quando lavoriamo anche in commissione nazionale, magari non ci conosciamo, dopo due secondi siamo grandi amici. Perché i problemi che vivete sono gli stessi. Perché i problemi sono comuni, nel senso, ciò che è comune accomuna. Quindi ci troviamo, ne parliamo, ne discutiamo, e lì salta ogni barriera possibile. E quindi non ci sono grosse differenze, i problemi sono gli stessi: l'edilizia, i fondi per gli studenti, le problematiche. Però di fatto non parliamo del professore singolo, parliamo di dimensioni più grosse. Sì, di un problema strutturale. Quello lasciamo ai sindacati. E il rapporto che, ripartiamo così dall'inizio, anche per chiudere il nostro cerchio, il rapporto con il ministero e con il ministro o i ministri che si sono succeduti in questi anni? Dipende anche lì dal ministro, da quanto crede nei giovani, da quanto crede nella possibilità di un futuro, che il giovane sia il futuro. Ci sono stati grandi ministri che ci hanno incontrato spesso, e non grandi ministri che ci hanno tralasciato. Quindi va bene, ci auguriamo che il prossimo ministro sia tra quelli che potremo definire grandi. Grazie allora a Francesco Roberto, a e tramite te a tutti coloro che adesso stanno lavorando appunto in consulta provinciale degli studenti. Bocca al lupo per il resto della carriera di studio. Grazie. Grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto. Il mondo della scuola torna sempre a quest'ora, fra 7 giorni, da Mirko Cavallin. Buon proseguimento. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.